Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. La puntata di Mr. Kilowatt di oggi è dedicata ai pannelli radianti. Abbiamo fatto un po' tutti, per la verità, l'abitudine al riscaldamento a pavimento che in molte case, soprattutto quelle di nuova costruzione, sta progressivamente sostituendo i vecchi termosifoni. Tuttavia, le applicazioni di questo principio, che come vedremo coinvolge la naturale tendenza degli oggetti caldi a emettere infrarossi, è applicabile più largamente, decisamente più largamente di quanto non sia, con il risultato di conseguire un significativo risparmio energetico. Ne parliamo con il nostro ospite, che è Paolo Principi, docente di fisica tecnica presso l'Università Politecnica delle Marche. Buonasera Principi. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Dunque, la prima cosa che le chiedo è di spiegarci qual è il principio di funzionamento su cui si basano i pannelli radianti e in particolare, ecco, in cosa differisce rispetto al riscaldamento fornito per esempio dai termosifoni oppure dagli impianti di riscaldamento ad aria. Tenga conto che quando un individuo sta all'interno di un ambiente risente di un parametro che viene definito come temperatura operativa, che è la media fra la temperatura dell'aria, che può misurare attraverso un termometro, e la media delle temperature superficiali che avvolgono l'ambiente. Degli oggetti. Quindi, che stanno intorno alla persona. Esatto, sia le pareti, ma anche per esempio corpi che emanano calore, come può essere un televisore, certo, o un computer. A questo punto quindi è possibile determinare la temperatura di benessere, sia influendo sulla temperatura dell'aria che influendo sulla temperatura delle pareti. Com'è però che si percepisce la temperatura di oggetti che in fondo non ci toccano? Perché quando gli oggetti hanno una temperatura tale per cui sono superiori a quella dell'aria, emettendo comunque radiazioni elettromagnetiche, così come fa la superficie del Sole. Parliamo di infrarossi in particolare, no? Esatto, siamo nel campo degli infrarossi, la superficie del corpo assorbe queste radiazioni e quindi ne risente termicamente perché si scalda. Detto all'estremo, sarebbe proprio quel fenomeno per cui quando d'inverno ci sono quei bar ancora all'aperto, c'è quella sorta di fungo con delle stufette che irradiano, in effetti poi abbiamo una sensazione di benessere perché nonostante la temperatura dell'aria sia non idonea al nostro comfort, agendo quella radiazione noi alla fine percepiamo una sensazione di benessere. Insomma, questi sistemi non scaldano l'aria che ci sta intorno, figuriamoci all'aperto, no, ma è proprio la radiazione infrarossa che arriva direttamente sulla pelle, viene assorbita e ci scalda. Allora, sì, la radiazione non scalda assolutamente direttamente l'aria, poi indirettamente, visto che la radiazione viene assorbita dalle superfici, queste, certo, si scaldano, l'aria a contatto con le superfici a sua volta si scalda. Senta, in passato il riscaldamento a pavimento ha creato qualche problema, ci sono stati dei periodi in cui è andato abbastanza di moda, ma sembrava producesse effetti dannosi per la salute, vene varicose, cose di questo genere. Adesso questo problema non c'è più. Sì, esatto. In effetti la tecnologia del radiante è una tecnologia abbastanza antica. L'avvento attuale è derivato dal fatto che sono migliorati i sistemi di regolazione della temperatura superficiale, che in un passato remoto proprio non c'erano, poi erano successivamente con una tecnologia non efficiente, per cui sono emersi in effetti problemi di circolazione del sangue negli arti inferiori. Invece adesso il problema è superato. Senta, quali sono le circostanze in cui questi sistemi a pannelli radianti sono preferibili ad altre forme di riscaldamento o anche di raffrescamento, perché è importante forse ricordare che lo stesso tipo di impianto si presta sia al riscaldamento che appunto al raffrescamento. Ci faccia qualche esempio. Sì, guardi, i sistemi radianti attualmente sono in auge per una motivazione. Sicuramente fanno perseguire il risparmio energetico perché, potendo agire sulle temperature superficiali, noi non riscaldando l'aria facciamo un notevole risparmio energetico, perché scaldare l'aria vuol dire spendere energia in maniera rilevante. Quindi è indicato anche negli ambienti di grandi dimensioni, dove appunto il volume d'aria è notevole. Pensi, non so, agli edifici di culto, quindi le chiese, pensi ai capannoni industriali, certo, nei quali ad altezze di 12-14 metri poi non corrisponde una occupazione da parte degli individui. L'ideale è scaldare quei 2 metri su cui cammina la gente, insomma. Esatto, quindi riscaldare dai 2 ai 14 metri tutto quel volume d'aria, in effetti è insensato. Tenga conto, fra l'altro, che la radiazione è direzionale, quindi per esempio negli opifici industriali dove ci sono delle zone occupate da macchinari e invece ci sono zone di percorrenza per dare modo agli operai di potersi muovere all'interno della fabbrica, si mettono per esempio delle termostrisce, dei sistemi radianti a soffitto, i quali radiano proprio verso la zona di distribuzione delle persone. Quindi, dove cammina la gente? Non coinvolgendo le altre superfici, quindi ovviamente andando a determinare un risparmio energetico significativo. Penso anche che i supermercati siano un buon esempio, soprattutto dove ci sono i banconi dei surgelati. Ci sono però dei casi in cui è meglio non utilizzare questi sistemi? Ci sono insomma delle controindicazioni? Il clima influisce notevolmente nel funzionamento del sistema radiante perché forti variazioni di temperatura durante la giornata non vengono seguite per esempio da sistemi ad elevate inerzie come i pannelli radianti a pavimento. In effetti esistono sistemi radianti molto più leggeri, cioè che coinvolgono poca massa, tipo i pannelli radianti a soffitto, che sono fatti generalmente con doghe metalliche, che quindi alle escursioni termiche esterne con un adeguato sistema di regolazione seguono in maniera positiva. Grazie al professor Paolo Principi. Mister Kilowatt si chiude qui, domani parliamo di cogenerazione e trigenerazione. Buona serata.